giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Veneto, Italia. Una serata come tante nel nostro paese. La tavola è imbandita, il piccolo schermo acceso. C'è un uomo solo in quella stanza. Telecomando in mano, attende con impazienza le ultime notizie. Il conduttore del telegiornale racconta le imprese terroristiche di qualcuno che dal 21 agosto del 94 colpisce in modo indisturbato nei supermercati, nelle spiagge, nelle chiese. Quella persona sola in una stanza è una bomber, un uomo normale che conduce una vita normale, un insospettabile della porta accanto che incontri sull'ascensore, per strada. Lui riesce da anni a mimetizzarsi tra la moltitudine perché i clandestini sono al sicuro soltanto tra la folla. Risale il 21 agosto del 94 la prima azione attribuita a una bomber. A Sacile, in provincia di Pordenone, esplode un tubo riempito con polvere da sparo e biglie di acciaio. Ne rimangono ferite 3 persone che partecipano ad una saga di paese. Fino al settembre del 95 altri 6 tubi scoppiano sempre nella zona di Pordenone. Il 4 agosto del 96 la paura arriva in spiaggia. Ancora un tubo esplosivo, un trentenne in vacanza a Lignano viene colpito in modo grave. Pochi giorni dopo una bomber si sposta a Bibione. Le azioni del terrorista proseguono fino a luglio del 2000, viene ferito un carabiniere. Mesi dopo una bomber cambia strategia e inizia a piazzare i suoi ordini nei supermercati, nascosti dentro prodotti di largo consumo. Una donna perde una mano. Poi 2 esplosioni definite anomale. Una alla vigilia di Natale del 2002 nel Duomo di Cordenone, l'altra 3 mesi dopo in un bagno del Palazzo di Giustizia di Pordenone. Il 25 aprile del 2003 una bambina di 9 anni perde invece 3 dita di una mano e la vista da un occhio per lo scoppio di un pennarello trovato sul greto del fiume Piave. 2 aprile 2004 un piccolo ordigno rudimentale viene trovato in una chiesa di Portogruaro sotto un inginocchiatoio. 26 gennaio 2005 una bomber si sposta a Treviso, fa esplodere un contenitore di plastica, nessun ferito. 13 marzo 2005 morta di Livenza, provincia di Treviso. Una candela nasconde l'esplosivo, una bimba viene ferita. Antonino Padovese ricostruisce per il giallo e nero le piste investigative percorse dagli inquirenti. Lunghi anni di indagini senza offrire un volto certo dell'attentatore. 11 anni di indagine, centinaia di reperti raccolti e di persone sospettate, milioni di dati da incrociare in un laboratorio elettronico. Questi i freddi numeri del lavoro svolto per catturare una bomber. Dal 2003 ci lavora a tempo pieno un gruppo interforze coordinato dai procuratori capo di Venezia, Trieste, Borracetti e Pace. Di una bomber il RIS di Parma ha raccolto la saliva lasciata su un nastro adesivo e mezza impronta digitale. Troppo poco per chiudere il cerchio sul criminale che dal 94 terrorizza il nord-est. Per prenderlo, hanno detto gli inquirenti, ci vuole un colpo di fortuna. Un passo falso, un errore, ma errori una bomber non ne fa praticamente mai. Lascia i suoi ordigni in luoghi molto frequentati, ma mai coperti dalle telecamere. Non annuncia né rivendica i colpi messi a segno. Con i suoi esplosivi colpisce nel mucchio, prediligendo in particolare luoghi sacri come chiese e cimiteri. Tra le sue vittime, soprattutto bambini e anziani. Gli inquirenti hanno cercato una bomber fra gli esperti di armi e gli ex militari. Nel mirino degli investigatori sono finiti nel corso degli anni un pubblicista udinese, uno studente trevigiano, un operaio veneziano e all'inizio del 2005 2 fratelli bellunesi, di cui uno ingegnere aerospaziale. Sono tutti usciti in modo pulito e spesso la sensazione era che l'inchiesta dovesse ripartire da zero. Ma chi è una bomber secondo gli inquirenti? Come si muove nel suo territorio? In quale modo sceglie luoghi e vittime? Come sceglie i contenitori in cui inserire inneschi ed esplosivi? Vittorio Borracetti è il procuratore della Repubblica di Venezia che coordina le indagini sugli attentati. Ma l'opinione prevalente tra gli investigatori, e anche la mia opinione, è che si tratti di una stessa persona. Naturalmente è una persona che presenta sicuramente una personalità disturbata dal punto di vista psichiatrico. Opera con modalità costanti che riguardano il modo con cui sono costruiti gli ordini esplosivi e la scelta degli oggetti che costituiscono il camuffamento di questi ordini, insomma, sono sempre oggetti di uso molto comune, cose assolutamente banali. In passato è stato un pennarello oppure un ovetto di quelli che ci sono per contenere le sorprese per i bambini, oppure un lumino in un cimitero, oppure una candela, insomma oggetti molto banali che non attirano in particolare l'attenzione. Un'altra caratteristica è di scegliere per i luoghi dove collocare questi ordigni luoghi frequentati dalla gente, insomma frequentati da adulti e bambini, da persone d'età, come appunto non so, i supermercati, oppure il greto di un torrente, oppure una chiesa. Il criminologo Francesco Bruno, al microfono di Andrea Viali, compone per il giallo e nero il profilo psicologico di una bomba. Non ci vuole nulla a sostenere che un paranoico ce l'ha con un certo numero di persone, ce l'ha naturalmente anche con la Chiesa, ce l'ha con la polizia, ce l'ha con i magistrati e soprattutto ce l'ha con chi è curioso, con chi non si fa i fatti suoi, con chi va a toccare cose che non gli riguardano. Perché? Perché probabilmente c'è stato un episodio di questo tipo che in passato ha colpito non tanto lui o la sua famiglia, comunque qualcuno che ha a che fare con lui o anche lui stesso, ma non penso necessariamente che sia rimasto vittima di un esplosivo. Sicuramente lui è un attento lettore dei giornali, gli piace che le sue gesta siano esaltate, gli piace diventare un mito, gli piace soprattutto essere ammirato per la capacità di confezionare questi stranissimi oggetti che possono essere presi inconsapevolmente da chiunque, insomma. Le inchieste su una bomber si muovono lungo due binari di investigazione, quella tecnologica e quella classica, su documenti e perizie. I carabinieri del RIS hanno sviluppato nel corso del tempo una specializzazione in questo tipo di indagini delicate. Giuseppe Maria Ceri ha intervistato il maggiore Luigi Ripani, comandante del reparto investigazione scientifica di Roma. È lui che ci porta nel punto centrale dell'inchiesta. La cosa fondamentale è l'intervento immediato sul luogo del reato. Da lì si può condizionare enormemente l'indagine, in senso positivo, purtroppo anche in senso negativo. Che efficacia possono avere dei rilievi fatti sul luogo del delitto a distanza di anni? Minore rispetto ai rilievi effettuati a suo tempo, da un lato. Dall'altro, diciamo così, la tecnologia oggi mette a disposizione di reparti tipo il RIS di Roma, ma comunque anche altri, delle tecniche, della strumentazione sicuramente più sofisticata rispetto al passato. Ecco, da un lato abbiamo il tempo e dall'altro abbiamo la tecnologia che hanno direzioni opposte. Rispetto al passato, che cosa c'è? In laboratorio e sul luogo del reato. In laboratorio, faccio l'esempio, l'esame del DNA, avevamo bisogno di una quantità concreta, una macchia di sangue sicuramente visibile ad occhio nudo. Oggi lavoriamo su tracce, su quantità invisibili estremamente basse, cioè, e talvolta anche degradate, cioè 10 anni fa, 15 anni fa non era possibile fare una cosa del genere. Sul luogo del reato la cosa più importante è la ricerca delle tracce. Oggi rispetto al passato, se prima era l'esperto che andava lì e osservava in modo meticoloso, oggi il personale preposto ai rilievi sicuramente ha delle tecniche che un tempo diciamo non erano utilizzate o neanche esistevano. Per esempio l'uso di alcune lampade a determinate lunghezze d'onda evidenziano la presenza di impronte sia biologiche o anche per esempio impronte digitali. Un tempo non era possibile vederle all'occhio nudo e quindi era materiale disperso, era materiale non utile per l'indagine criminale.